Il giorno che sono stata condannata a morte è stato il giorno più bello della mia vita, perché ero sul punto di morire per la causa più importante sulla terra. È con queste parole, con le parole di Jamila Bouhired, che l'angolo noir questa sera si addentra nelle pieghe oscure della storia, quella storia che oggi come allora tortura e cerca di uccidere o uccide chi lotta per la libertà. Algeri, 1935. Nella Kasbah di Algeri nasce Jamila Bouhired, una nazionalista algerina, musulmana e femminista. Ha lottato contro l'invasione coloniale francese ed è stata catturata, torturata e condannata a morte, ma infine rilasciata fortunatamente libera. Durante i suoi studi si è unita al Fronte Nazionale per la Liberazione Algerina e è divenuta il braccio destro del comandante Yasef Sadi. Nel 1957, durante la lunga e sanguinosa guerra per l'indipendenza dell'Algeria, Algeri è caduta sotto il controllo militare francese di risposta ad una serie di attacchi armati da parte delle guerriglie urbane e con il sostegno del Fronte Nazionale di Liberazione Algerina che ha indetto uno sciopero generale, sciopero che Jamila ha continuato a far seguire a buona parte delle persone della Casbah, riuscendo a muoversi con maggior facilità essendo coperta dal velo. Nell'aprile del 1957, durante uno scontro a fuoco tra le forze della resistenza e le truppe francesi, Jamila venne colpita ad una spalla e, ferita, venne facilmente catturata. Da quel momento è partito il processo che l'ha accusata di essere la principale organizzatrice degli attentati, uno tra tutti, quello del 30 settembre del 1956, noto come Milk Bar, nel quale vennero uccise 11 persone e ferite 5. È stata, dopo il suo arresto, torturata per più di 17 giorni cercando di scoprire dove si nascondesse il comandante Sadi. Jamila non ha parlato e durante la corte non si è nemmeno dichiarata innocente, ma anzi è stata lei ad accusare la corte di non avere alcun diritto di giudicarla. La verità è che io amo il mio paese e lo voglio vedere libero ed è per questo e soltanto per questo che voi mi avete torturato e che mi state condannando a morte. Ma anche quando mi ucciderete, sappiate che quello che state uccidendo è la libertà del vostro paese. Accusata di terrorismo, ne è seguita una condanna a morte, ma tuttavia con l'interesse di un'enorme campagna mediatica, Jamila è stata fortunatamente rilasciata. È stata rilasciata nel 1962, quando l'Algeria diveniva finalmente indipendente. Da quel momento si è particolarmente battuta per i diritti delle donne, in particolare nel 1981 ha organizzato una serie di proteste affinché venisse abolito il codice di famiglia, secondo il quale comunque per le donne si prevede che siano sotto il controllo di fratelli o mariti. Nel 1981 è riuscita in quello che poi, invece, nel 1992 veniva definitivamente proclamato il codice di famiglia conservatore che lei aveva in tutti i modi cercato di distruggere. Thank you. Nel novembre del 1989, durante le registrazioni dell'album Goo, The Sonic Youth, Kim Gordon, voce, cantante e bassista, intervista su Spin LL Cool J con l'intenzione di trovare un punto d'incontro tra la scena musicale alternativa e quella hip hop di New York. Ma a causa del maschilismo di LL Cool J, che per inciso significa Ladies Love Cool James, la conversazione degenera e Kim Gordon lo colpisce in testa con il suo taccuino. LL Cool J è sostituito da Chuck D The Public Enemy, che collabora con Kim Gordon per la realizzazione di Cool Things, sempre nell'album Goo. Nel 1869, ghetto ebraico in Russia, nasce Emma Goldman, Autrice, libera pensatrice, attivista e considerato un'anarcofemminista. Dopo pochi anni passati in Russia, quando all'età di 15 anni suo padre cerca di farla forzatamente sposare ad un uomo molto più vecchio di lei, lei riesce ad andare negli Stati Uniti, dove continua la propria militanza anarchica e dove nel 1892, insieme ad Alexander Berkman, pianifica l'assassinio di Harry Clay Frick, il padrone di una fabbrica che aveva soppresso la possibilità di scioperare imponendo delle guardie armate. L'attentato fallisce. Alexander viene mandato a 22 anni di prigione. Lei in quell'occasione non viene arrestata, ma successivamente verrà arrestata molte volte con l'accusa di sobillare i disoccupati a prendere il pane con la forza, con l'accusa di distribuire delle letture riguardanti il controllo della nascita e con l'accusa di protestare contro la Prima Guerra Mondiale. Nel 1919, considerata persona scomoda, lei, così come altri tanti militanti, verrà rimandata nuovamente in Russia, verrà deportata dagli Stati Uniti e ricondotta in Russia. In Russia, Emma Goldman proverà una profonda delusione di quanto si troverà di fronte ai suoi occhi. Sperava di trovare uno scenario differente, delineatosi a seguito di quella che lei definiva l'utopia comunista. Tuttavia, quello che lei trova è uno Stato che ritiene particolarmente reazionario e controrivoluzionario. La militanza continua, continua e nel 1936, all'età di 67 anni, decide di andare in Spagna per unirsi alla lotta contro la guerra civile. Nel frattempo continua a scrivere e portare avanti una serie di discorsi e di discussioni che hanno al centro la liberazione delle donne. Né uno dei suoi ultimi pensieri è stata solita ribadire con forza che una donna ha come principale compito quella di affermare la propria personalità a prescindere dalla sessualità, quello di rifiutare di avere figli laddove non ne voglia e soprattutto di rifiutare di essere una serva di Dio, dello Stato, della società, del marito e della famiglia. Solo così, finalmente, potrai cominciare ad essere libera. Thank you. 1985 i Sonic Youth pubblicano Bad Moon Rising, un album concettuale che parla, tra muri di feedback e ritmi pesanti, di storia, di violenza e di follia, un suono claustrofobico, arricchito dalla presenza di un'altra grandissima icona femminile del noise newyorkese, Lydia Lunch, presente nel pezzo Death Valley 69, ispirato dagli omicidi commessi dalla famiglia di Charles Manson. Nel 1944 nasce nella città costiera Haifa, città annessa dagli Stati Uniti ad Israele dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nasce Leila Khaled, una combattente per la libertà della Palestina. La sua famiglia è stata costretta ad abbandonare un campo di rifugiati in Libano, lasciandosi alle spalle il padre politicamente attivo. Anche Leila comincia molto presto a coinvolgersi nella lotta per la liberazione della Palestina, quando già all'età di 15 anni si unisce al movimento più tardi conosciuto come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Nel 1969 cerca di organizzare il primo dirottamento di un aereo che è diretto da Roma ad Atene, ritenendo per errore che a bordo ci sia un ambasciatore israeliano diretto negli Stati Uniti. Leila ordina al pilota di atterrare su Haifa, dove a lei non è più permesso entrare, ma successivamente l'aereo atterra a Damasco. A seguito di questo tentativo di dirottamento, Leila è costretta a cambiare viso. Si sottopone a 6 interventi chirurgici per cambiare collo e naso, tutto questo senza anestesia. Io ho una causa più grande e più nobile della mia, una causa rispetto alla quale tutti i miei interessi privati e le mie preoccupazioni devono essere assolutamente di secondo piano. Nel 1970, con la sua nuova faccia, cerca di organizzare un secondo dirottamento di un aereo che è diretto ad Amsterdam. Rimuove con i denti i perni della granata e ordina al capitano di lasciarle prendere la cabina di pilotaggio, ma nel tentativo di farlo è ferita da un comandante israeliano presente a bordo e perde conoscenza. Quando mi sono svegliata ero legata ed ero stata presa talmente tanto a calci che perdevo sangue dappertutto. I passeggeri gridavano, una donna gridava: fermate il sangue. Noi avevamo delle regole molto strette, non dovevamo ferire nessuno, soltanto difendere noi stessi. Non volevamo che l'aereo saltasse in aria. La granata doveva avere soltanto lo scopo di spaventare. L'aereo alla fine atterra a Londra. Leila viene arrestata per circa 28 giorni, fino a quando il primo ministro la rilascia in cambio di ostaggi occidentali tenuti dal Fronte Nazionale per la Liberazione Palestinese. Dal 1967 Leila continua a lottare per la liberazione dei territori dall'occupazione israeliana e continua a ripetere che non è un processo di pace, è un processo politico dove la bilancia, le forze sono tutte a favore di Israele e i palestinesi non hanno nulla. Continua a ripetere questo ed altro anche a favore della liberazione delle donne. E dice: all'inizio noi donne pensavamo di dover provare di essere uguali agli uomini nella lotta armata. Così volevamo essere come gli uomini, almeno in apparenza. Poi ho capito che non era più necessario dimostrare a noi stessi di essere valorose così come gli uomini. Ho capito che una donna può essere una combattente per la libertà, un'attivista politica, ma che può anche innamorarsi, essere amata, sposarsi, avere figli ed essere una madre. La rivoluzione significa vita, ogni aspetto della vita. Tarsem Moore dei Sonic Youth riteneva Hong Kong Garden tra i suoi 25 album preferiti, cantato dall'icona gotica per eccellenza, Siouxsie. Di lei si dirà: la sua voce è di per sé il filo conduttore attraverso tutto questo. Non c'è nessuno che canta in quel modo, che canta come lei. E penso che ci siano un sacco di persone che sono state influenzate da lei. Anche se si cerca di imitarla, non è possibile farlo. Non è possibile generare una voce come la sua, un'armonia tale, è una voce particolare. La sua tecnica è un filo conduttore, è un'opera d'arte, è nitida, è tutta sua. Appare maestosa e distaccata, una donna che ispira tutte le altre a liberarsi da dettami sociali e costrizioni. Nel 1979 dedica la canzone Metal Postcard all'artista antinazista John Hetfield ed è quella che ora ascoltiamo. Yeah! 1978, Afghanistan, nasce Malalai Joya, un'attivista sociale, parlamentare e promotrice dei diritti delle donne e dei bambini. È cresciuta in un campo di rifugiati in Iran ed in Pakistan dopo che la sua famiglia è stata costretta a lasciare l'Afghanistan durante l'invasione sovietica del 1982. A 19 anni ha iniziato a dare scuola, a tenere classi di letteratura alle altre donne afghane in Pakistan, fino a quando è tornata in Afghanistan nel 1998, durante il regno dei talebani. Nel 2003 è divenuta piuttosto conosciuta dopo aver tenuto un lungo discorso nel quale condannava il coinvolgimento dei signori della guerra nella ricostruzione post-talebana della Costituzione afghana. Per questo è stata definita infedele e comunista, ma chi la supporta la definisce la donna più coraggiosa dell'Afghanistan. A 28 anni è divenuta una delle donne più giovani all'interno del Parlamento. Da allora, da quando ne fa parte, continua a criticare apertamente, ad accusare apertamente gli ufficiali afghani sia di utilizzare la legge islamica del paese come un giocattolo per limitare i diritti delle donne, sia di denunciarne la corruzione e di paragonarli ad una gabbia di animali. Per questo motivo ha ricevuto una serie di attacchi, sia fisici e verbali, oltre ad aver ricevuto minacce di violenza sessuale ed essere sopravvissuta miracolosamente a 4 attentati per la sua vita. Di tutta risposta è costretta a viaggiare con guardie armate, a indossare un burqa e a non dormire più di 2 notti nello stesso posto. Da quando nel maggio 2007 ha paragonato i parlamentari ad una gabbia di animali, è stata rimossa dal suo lavoro ed le è stato proibito di far parte nuovamente del Parlamento, nonostante da allora vi siano numerose proteste che richiedono che venga rimessa al suo posto. Malai Jova ha ricevuto diversi riconoscimenti e è anche stata il soggetto di un documentario, I nemici della felicità. Loro mi uccideranno, ma non uccideranno la mia voce, perché non possono uccidere la voce delle donne dell'Afghanistan. Lo puoi tagliare un fiore, ma non puoi impedire alla primavera di tornare. Io non sussurrerò mai per la minaccia di un'intimidazione, ma urlerò, urlerò sempre, perché sono il simbolo della lotta del mio popolo e sempre continuerò a servire questa lotta. E anche se mi dovessero uccidere, uccidere per quello in cui credo, allora il mio sangue non sarà altro che il seme dell'emancipazione. E le mie parole saranno il paradigma rivoluzionario per le generazioni che verranno. Thank you. Ad ispirarsi a Sioux c'è la cantante e compositrice inglese Pauline Jane Harvey, meglio nota come PJ Harvey. Nel 2010, dopo già diversi anni di carriera ed è già all'ottavo album solista, PJ Harvey decide di cambiare stile e anziché dedicarsi ai temi intimistici come è solita fare, si dedica a temi relativi al conflitto in corso in Afghanistan e in Iraq. Registra in solo 2 mesi, tra l'aprile e il maggio del 2010, l'album nella chiesa di St. Peter, una chiesa del XIX secolo in una contea dell'Inghilterra. Introduce strumenti che non aveva mai usato: fanfara, tromba da dunata, presenza di canti medio orientali, trombone e sassofono baritono, per concepire quello che si chiama Let England Shake. The West asleep, let England shake, weighted down by the silent dead. I fear our blood won't rise again, won't rise again. England's dancing days are done. Another day, Bobby, for you to come home and tell me the difference. I did it. "1919, Lares, Porto Rico, nasce Lolita Lebron, dissidente politica e prigioniera. 2 anni prima della sua nascita, gli Stati Uniti avevano proclamato il Jones Shafroth Act, un atto secondo il quale i cittadini di Porto Rico dovessero considerarsi cittadini degli Stati Uniti, il che sostanzialmente equivaleva all'abbandono della lingua spagnola e all'obbligo di parlare inglese. Lolita la ricorda come una delle tante forme di terrorismo americano. Ricorda le intense battaglie tra i nazionalisti di Porto Rico e la polizia coloniale, con sfondo sullo sfondo una massiva campagna di sterilizzazione portata avanti su tutte le donne portoricane, con l'obiettivo che le operaie che dovevano lavorare all'interno delle fabbriche delle multinazionali americane presenti a Porto Rico non avessero figli e fossero delle efficienti e produttive operaie. Nel 1940 Lolita si muove a New York, dove tra l'altro continua a maturare idee di ribellione contro l'oppressore. In terra americana continua a leggere No Blacks, No Dogs, No Puerto Ricans. Dunque inizia a seguire Pedro Albizu Campos, che era il leader del Partito Nazionalista di Porto Rico, e con lui stabilisce nei minimi dettagli l'attacco che avrebbe compiuto il 1 marzo del 1954 alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Washington. Una volta dentro farà irruzione gridando Viva Puerto Rico Libre e sventolando una bandiera del Porto Rico. Verrà arrestata per oltre 25 anni, fino a quando nel 1979 il presidente degli Stati Uniti Carter ne decide la liberazione. Ma nel 2001 è arrestata nuovamente per 60 giorni per aver oltrepassato la zona rossa presente a Vieques, un'isola portoricana che era stata occupata dalle forze navali degli Stati Uniti. A causa delle proteste, grazie alle proteste da lei portate avanti, le forze navali degli Stati Uniti nel 2003 sono costrette a lasciare l'isola. Nel 2005 scende di nuovo in strada, chiedendo che venissero condannati e accusati i responsabili dell'FBI che avevano assassinato Filiberto Queda Rios. È morta nel 2010 e fino all'ultimo ha continuato a lottare per l'indipendenza del Porto Rico. Widerstand hat Fuß und Hand, dein Herz. alles bis dein Lied, deine Worte. Oh, Rock'n'Roll-Operette, Rock'n'Roll-Operette, Rock'n'Roll-Operette. E sulle note di Nina Hagen, icona del punk della Berlino Est degli anni 70, l'Angolo Noir vi saluta e vi aspetta al prossimo mercoledì.